una campagna di raccolta fondi destinata ai popoli amazzonici, custodi del cuore verde del nostro pianeta, per fronteggiare la nuova minaccia mortale del coronavirus che si aggiunge alla deforestazione e all'aggressione delle economie predatrici. Si chiama Empate 2020 ed è stata lanciata dall'Alleanza dei Popoli della Foresta, fondata in Brasile da Chico Mendes oltre 30 anni fa. Il suo obiettivo è raccogliere fondi per assistere 3.638 famiglie indigene residenti nelle riserve dell'Alto Juruá, Riosinho da Libertade, Alto Turuacá e Chico Mendes e in 15 terre indigene dello Stato dell'Acre. COSPE è l'ONG ambasciatrice della campagna per l'Italia. Ne abbiamo parlato con Angela Mendes, attivista, figlia dello storico leader indigeno Chico, che nella campagna rappresenta l'Alleanza dei Popoli della Foresta. Può dirci qualche cosa di più sugli obiettivi e i promotori di questa importante iniziativa? Nostra campagna è Empate 2020, Povos da Floresta na luta contra a Covid-19. Empate 2020, Popoli della Foresta in lotta contro Covid-19, è una campagna in linea con i principi dell'Alleanza dei Popoli della Foresta e i suoi ideatori sono Comitato Chico Mendes, il Consiglio Nazionale delle Popolazioni Estrattive, la ONG SOS Amazzonia e la Commissione Pro Indio dell'Acre con l'appoggio dell'Organizzazione dei Popoli Indigeni del Rio Juruá e dell'articolazione delle popolazioni indigene del Brasile. Il nostro obiettivo è proprio quello di aiutare a minimizzare l'impatto del Covid-19 in questi territori estrattivisti e terre indigene. Sappiamo che non è più possibile impedire l'arrivo del Covid-19 perché già è lì, ma vogliamo impedire che ancora più leaders, che ancora di più lavoratori muoiano contaminati da questa malattia. Morram contaminadas por essa doença. Só para falar que empate... Empate era il nome del movimento che mio padre e Wilson Pinheiro crearono negli anni 70 per impedire la deforestazione. Empate è un movimento pacifico di resistenza alla deforestazione dove attraverso il dialogo si cercava di far desistere il disboscatore taglialegna e quando non si riusciva a convincerlo attraverso il dialogo, molte volte lo si faceva mettendosi tra l'albero da abbattere i disboscatori. Pertanto è un movimento pacifico. E come abbiamo già sottolineato, Empate non sarà in grado di bloccare il virus, perché il Covid-19 già è in quei territori. Ma vogliamo impedire che i nostri leaders e le persone che custodiscono la nostra cultura e le nostre memorie ci lasciano colpiti da questa malattia. Ci puoi raccontare che cos'è l'Alleanza do Povos da Floresta, quali sono i popoli che la compongono e perché riveste oggi un'importanza strategica? Alleanza dos Povos da Floresta foi uma estratégia idealizada por meu pai, Chico Mendes. L'Alleanza dei Popoli della Foresta era una strategia ideata da mio padre Chico Mendes assieme ai suoi compagni Seringueiros e ad alcuni dei leader indigeni, principalmente Ailton Krenax e Chipaxé Xavante. Consisteva nell'unificare l'agenda di lotta di queste diverse popolazioni indigene e riberignas che in quel momento subivano le stesse minacce da parte di accaparatori di terra e da taglialegna. Le minacce e i nemici erano comuni. Quindi questi popoli decisero come strategia di unirsi per progredire nei loro risultati e nelle loro lotte. Per avanzare nas suas conquistas e nas suas lutas, né? Alleanza dos Povos da Floresta durou bastante tempo. L'Alleanza dei Popoli della Foresta è durata per molto tempo e durante quel periodo si è ottenuta la demarcazione di molte terre indigene. Furono concepite le riserve estrattiviste e mio padre realizzò molti incontri con i leader indigeni e ne invitò vari per unirsi alle azioni del sindacato nel tentativo di coinvolgerli. L'Alleanza dei Popoli della Foresta è estremamente strategica oggi, considerando che l'attuale governo ha sostenuto e incoraggiato l'avanzata di predatori esterni su queste terre e su questi territori e che attualmente numerosi progetti di legge e decreti che minacciano direttamente l'integrità dei territori e delle popolazioni sono in corso di elaborazione e approvazione. Numerosi progetti di legge e decreti oggi stanno tramitando no congresso. Al di là dell'emergenza Covid-19, cosa possiamo fare noi, società civile europea, per sostenere la lotta dei povos da floresta? Está bem claro para nós brasileiros. Per noi brasiliani è molto chiaro che solo due tipi di azioni possono avere effetto rispetto all'attuale presidente: la conversione delle istanze e dei problemi in processi giudiziari e la pressione della società internazionale, che ha fatto sì che il governo abbia preso, almeno apparentemente, misure che mirano a minimizzare la disapprovazione di cui è circondato fuori dal Brasile. Quindi la pressione della società internazionale è ancora molto importante, soprattutto quando si tratta di accordi commerciali e economici di interesse per il Brasile. Con pressione principalmente sobre os grandes acordos comerciais, perché a gente sabe che mexendo na economia. Perché sappiamo che l'economia è l'unica cosa che questo governo attualmente priorizza e ne rappresenta il tallone d'Achille del governo. Quindi è qui che dobbiamo colpire, esercitando pressione, anche quella proveniente da governi esteri e società civile internazionale, principalmente sui grandi accordi commerciali. Con pressione principalmente sobre os grandes acordos comerciais. Então, nesse momento em que o inimigo é o Estado também. Quindi in questo momento il nemico è anche lo Stato, oltre ai land grabber, a coloro che tagliano le foreste, ai fazendeiros che piantano soia e agli estrattori di oro e pietre preziose che continuano a minacciarci e ad infrangere le leggi, adesso stimolati e incoraggiati dall'attuale governo. Stimolados ou incentivados pelo atual governo. Le ultime parole di Angela Mendes ci confermano l'efficacia della denuncia internazionale contro l'intensificarsi degli incendi e del disboscamento dell'Amazzonia brasiliana e delle numerose campagne di boicottaggio dei prodotti riconducibili allo sfruttamento non sostenibile della foresta, che hanno allertato l'opinione pubblica e il settore privato brasiliano sulle possibili ripercussioni in termini di sviluppo economico. In questo contesto, la campagna Stop UE Mercosul è tempo di ripensarci potrà costituire un valido supporto da parte delle organizzazioni della società civile europea, subordinando la ratifica degli accordi ad una revisione radicale delle politiche ambientali e di preservazione delle popolazioni indigene e tradizionali da parte del governo brasiliano. Intervista e traduzione a cura di Alessandro Ugolini, cooperante COSPE in Brasile, in collaborazione con Giorgio Menchini, presidente COSPE, Eleonora Migno, desk officer, e Alex Bensi. L'intervista fa parte delle azioni dell'Antenna dei Diritti, una campagna informativa di denuncia delle violazioni dei popoli indigeni amazzonici e della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Amazonia From Heart to Heart di COSPE. Per info www.cospe.org.